Jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano. Eccoci qua. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti quanti, sono Stefano e Paolo e vi troviamo qui per farvi qualche proposta musicale, come sempre. Bella questa sigla, Stefano. Ti piace? Ti piace? Sì, ragazzi francesi, abbiamo detto. Sono dei ragazzi francesi, chiamano Metropolitan Jazz Affair. Questa è Bird of Spring. Sì, no, ci terrà un po' compagnia, anche se saremo in compagnia di altri grandissimi musicisti. Di cosa vogliamo parlare stasera, Paolo? Questa sera parliamo di un modo di fare classifiche, di parlare di cosa va per la maggiore, attraverso una rivista, un magazine di musica jazz di grande tradizione che si chiama Downbeat. Sì, ma quando tu parli di classifiche è sempre un po' pericoloso, perché poi spesso suscitano più polemiche di quanto non stimolino invece ascolti. Sì, perché poi le gelosie. Sì, poi non ci si fida. Però tu metto Downbeat, effettivamente Downbeat è una delle riviste storiche, direi, del jazz. Downbeat intanto è il primo battito in una misura musicale, per cui è l'uno, diciamo, quando si conta, ed è anche il titolo di questa rivista storica, nata nel 1934, che è probabilmente la rivista più autorevole di musica jazz. È una rivista americana. È una rivista americana, sì, purtroppo non è facile reperire in mercati diversi, anche perché spesso loro lavorano con l'abbonamento, e però hanno dei collaboratori straordinari e hanno anche delle iniziative notevoli, e forse proprio una di queste importanti iniziative di cui trarremo spunto stasera. Certo, quello che chiamano il Reader's Poll, cioè il sondaggio tra i lettori, e poi c'è anche il sondaggio tra i critici. E sulla base di una serie di domande che vengono rivolte alla comunità dei critici e dei lettori, vengono selezionati il disco dell'anno ogni anno e il musicista dell'anno per una serie di strumentisti, oltre che in generale per tutta la musica jazz, anno per anno. Beh, in effetti è una buona idea quella di forse far ascoltare negli ultimi anni, quindi 2006, 2007, 2008, 2009, credo che sia in corso adesso. Esattamente. Forse appunto è interessante far ascoltare quali sono state queste selezioni, un po' dall'idea, no? Credo, certo, quale sia l'impostazione. Anche perché poi una rivista che lavora in questo modo, cercando di sondare gli umori dei propri lettori, costruisce una comunità, che alla fine è uno dei ruoli principali che ha una rivista regolare, cioè di sentirsi parte di un gruppo di persone che condividono l'amore per questa musica. Bene, vogliamo far sentire il primo pezzo, poi parliamo di chi è, ma il primo pezzo si riferisce alla scelta che è stata fatta dai critici nel 2006, il numero uno del 2006. Esattamente, era Andrew Hill, l'album di cui poi vi parleremo era Timelines, album del 2006, selezionato come album dell'anno dal Critics Poll di Downbeat Jazz. Sì, va detto che è un album Blue Note, no? Anche questo sono delle case discografiche che sono un po' della, così, una garanzia. Sentiamo che cosa ci avevano selezionato nel 2006. Thank you. Ci sarà un motivo per cui è stato scelto dalla critica, direi, no, Andrew Hill? Beh, in questo disco sentiamo alcune delle sue caratteristiche di compositore, oltre che di pianista. Cioè un artista che si muove a metà strada tra l'avanguardia e un mainstream, cioè la direzione principale che la musica jazz anche più radiofonica prende. E lo fa mescolando dunque forme molto libere, che sono legate a quello che è il free jazz, a forme più convenzionali, più ascoltabili, anche più semplici. Beh, va detto che non era proprio un giovanotto. Innanzitutto dobbiamo utilizzare l'era, no? Perché era nato nel 37, ma è morto poi nel 2007, proprio poco dopo aver ricevuto questo tipo di riconoscimento. Peraltro non è certo l'unico riconoscimento di Andrew Hill, è un personaggio piuttosto noto nell'ambito della critica e degli specialisti, forse non noto al grandissimo pubblico. No. Anche riconosciuto dall'Accademia, ha ricevuto un dottorato postumo da Berklee College, unico caso in cui Berklee ha consegnato un dottorato postumo, appunto. Si è mosso, dicevamo, nell'avanguardia, anche ricalcando e innovando rispetto a due grandi maestri che sicuramente si possono riconoscere nel suo suono, due grandi pianisti che sono Thelonious Monk e Bud Powell. E di entrambi in Andrew Hill si raccoglie il frutto, e anche, è vero Stefano, della musica caraibica in qualche modo. Sì, tra parentesi c'è una storia particolare su di lui che non si sa bene dove è nato, no? Sono di fonti diverse, in molti casi è indicato come nato ad Haiti, in realtà quelle fonti più qualificate lo danno nato a Chicago, però un po' di influenze caraibiche, forse non in questo pezzo ma in altri pezzi sicuramente vi sono in lui, così come dicevi certamente ci ricorda due grandi maestri, ma allo stesso tempo sicuramente ha sviluppato una sua tecnica molto individuale che lo caratterizza e di cui abbiamo sentito. Bene, questo era un po' un primo assaggio. Un primo, no? Assaggio, sì, dal quale partiamo per approfondire la nostra disamina di successi che hanno preso i critici e Downbeat ha eletto ad album dell'anno. Dal 2006 con Andrew Hill passiamo al 2007. Sì, nel 2007 troviamo degli altri artisti straordinari, tra cui un trio un po' particolare, questo lo potremmo dire, un trio che si chiama Trio Beyond, del quale vi diciamo per il momento solo che pubblica con una grande etichetta che è ECM, la celeberrima, e che è fondato da una coppia alla quale poi si aggiungono altri, la coppia di due grandi stelle, quella di Jack DeJohnette e John Scofield. Ve ne parliamo dopo avervi fatto sentire qualcosa dal loro Saudades, un disco del 2007 appunto, che riceve l'onore del Critics Poll di Downbeat, Trio Beyond. We'll be right back. Trio Beyond, Saudades, disco del 2007, che entra nel trio dei Critics Poll di Downbeat Jazz. E ricordiamo nella storia di questo trio che unisce Jack DeJohnette alla batteria, John Scofield alla chitarra e Larry Goldings agli organi, un batterista che li ha ispirati, no Stefano? Eh sì, è Tony Williams, tant'è che appunto stesso Scofield ha suonato con Tony Williams, che è un grande maestro, non solo della batteria ma proprio anche della musica jazz. Ha fatto delle cose molto, dei pezzi, dei dischi molto all'avanguardia e anche con delle formazioni molto diverse. È un altro di quei grandi musicisti che ha valorizzato altri giovani musicisti e quindi in qualche modo ha creato, se non delle scuole, ha creato delle grandi opportunità per poi far crescere questi musicisti, e John Scofield sicuramente è uno di loro. A sua volta poi Tony Williams ha levato un po' da Miles alla fine degli anni 60. E soprattutto poi in questo disco di Trio Beyond risentiamo di Williams un certo modo di essere cattivo sull'hi-hat, sul Charleston, insomma sui due piatti alla sinistra del batterista, sopra il suo piede sinistro, con un grande funk, un tiro funk notevolissimo. Sì, se un'altra caratteristica di questo trio, se posso sottolineare rispetto a quello che abbiamo fatto ascoltare tante volte, è proprio l'organo Hammond che tu prima, cioè Larry Goldings. Larry Goldings, che è un musicista relativamente giovane, un musicista nato nel 1968 ma molto molto conosciuto nella zona newyorkese proprio per il suo modo di suonare l'organo Hammond, che ritroviamo in alcuni pezzi jazz. C'è anche Sam Yael, per esempio, che è molto famoso, e pur avendo un suono molto anni 60-70, si integra bene in formazioni tipo il trio, tipo il quartetto, e questo ne è sicuramente un ottimo esempio, direi. Certo, un grande organista, tastierista jazz che ha usato anche tanto l'Hammond, forse vi faremo sentire prossimamente, sicuramente quel Joe Zawinul che con Shorter e gli altri amici di Weather Report ha di sicuro cambiato la storia della musica jazz, anche lui. Bene, siamo pronti per un'altra proposta, diciamo, ispirata dal Reader's Poll di Downbeat. In questo caso sono le scelte fatte dai critici, lo ricordiamo, è quello che stiamo proponendo. Siamo nel 2007 in questo caso, e rimaniamo al 2007. Rimaniamo con l'ultimo forse grande gigante, bisogna dirlo, ancora in vita, perché Sonny Rollins, questo sassofonista colosso, ormai è un monumento che però ancora produce musica importante e bellissima. Sì, Sonny Rollins, lo ricordiamo, è nato nel 1930, quindi ormai siamo a un'età abbastanza avanzata, siamo quasi a 80 anni, e continua comunque a calcare la scena. Il suo sassofono si fa ben sentire, ha ancora molto da dire, direi, e soprattutto continua a costituire un punto di riferimento. Il fatto che nel 2007, due anni fa, sia stato fra i dischi scelti da certo, un giornale di altissimo livello quale Downbeat, dà un po' l'idea di come rimanga sulla scena con tutta la sua originalità e con tutta la sua bravura. Certo, anche se appunto nascendo nel 30 si forma negli anni in cui sono sulla scena le altre gigantesche stelle di quegli anni, naturalmente da Max Roach a Coltrane a Miles, e si incrocia anche con la nascita del bebop con Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Beh, e quant'altro. Il suo disco, ricordiamolo, più importante, proprio dicevamo prima di monumenti, si chiama Saxophone Colossus, è un disco del 56 in cui suona con Max Roach, giusto appunto, un disco che ha segnato la storia dello strumento. Direi che il nome in questo caso rappresenta anche, il titolo del disco rappresenta anche il peso che ha nella storia del jazz. Certo. Al sassofono tenore, allora vi facciamo sentire Sonny Rollins, questo è il disco del 2007, Sonny Please. Thank you. Sonny Rollins dal disco Sonny Please, premiato da Downbeat, dai critici del Downbeat nel 2007. Un monumento dello strumento di cui l'importanza è al tempo stesso nella capacità di innovare, ma anche, direi, soprattutto nella sua statura, cioè in quello che metteva nell'esecuzione, l'irismo, l'intensità, la libertà esecutiva, che sono doti riconosciute dalla critica sin dagli anni iniziali della sua carriera. Rollins ha avuto una carriera lunghissima anche perché sin da molto giovane è stato enormemente apprezzato. Sì, Sonny Rollins è un po' un infaticabile del jazz, perché ha cominciato molto giovane con Bud Powell, J.J. Johnson, e continuato con tutti i più grandi nomi e soprattutto poi ha inciso con gruppi che avevano il suo nome, quindi insomma come band leader. Però appunto in questa infaticabile attività ci sono stati due momenti di completo stop. Succede ogni tanto succede dai musicisti jazz che hanno bisogno di questi, di un qualche cosa, tipo un sabbatico, di un periodo in cui non sono presi né da incisioni né da tour, e questo è successo a distanza così di diversi anni, tra il 59 e il 61 e tra il 68 e il 71. Tutto il resto della sua vita, essendo nato negli anni 30, appunto, abbiamo detto, non ha fatto altro che incidere, fare tour, soprattutto incidere con gruppi molto diversi e anche con case discografiche molto diverse. Ha inciso con, se noi scorriamo le case discografiche con cui ha fatto dischi, troviamo un po' la storia della musica, soprattutto della musica jazz: Blue Note, Prestige, RCA, Impulse. No, sono sicuramente le più grandi, e poi più recentemente Milestone, sono tutte le grandi, direi, case discografiche del jazz. Un altro elemento interessante della sua carriera è che in una di queste pause, ad esempio, si è avvicinato all'India, alla cultura indiana, anche alla spiritualità indiana, e in altre fasi ha esplorato le sue origini caraibiche. Anche egli, come Andrew Hill, di cui parlavamo prima, ha un po' di ancestors nelle isole caraibiche, e di queste energie musiche ha portato con molta libertà, come dicevamo, il seme nella propria musica. E lo ha fatto ad esempio con una qualità che gli viene riconosciuta, quella di riuscire a permettersi dei grandi silenzi e delle improvvisazioni lunghe, con degli staccati, degli spazi coraggiosi. Si dice di lui che Sonny Rollins non ha mai temuto nulla. Bene, ricordiamo che stiamo dedicando questa nostra trasmissione ai dischi che sono stati premiati da un beat in questi ultimi 3 anni. Adesso facciamo una breve pausa e riprenderemo sicuramente con altre interessantissime selezioni fra pochissimo. A tra poco e buon jazz. Ciao da Stefano e da Paolo. Jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano. Ed eccoci di ritorno. Eccoci tornati a parlare di jazz e quest'anno di Downbeat, la rivista prestigiosissima che ogni anno seleziona gli album e i musicisti più importanti. In una retrospettiva partita dal 2006 vi stiamo raccontando un po' quali sono stati i musicisti più importanti selezionati dalla rivista negli ultimi anni, per presentare il sondaggio che si svolgerà nel 2009, che anzi è in corso, a cui chiunque può partecipare presso il sito web della rivista, che è downbeat.com. Adesso siamo pronti ad arrivare al 2008 nella nostra carrellata, se non sbaglio, e nel 2008 troviamo un artista abbastanza particolare, direi. Innanzitutto troviamo una donna, quindi finora non ho trovato nessuna donna. Si chiama Maria Schneider ed è una musicista, una compositrice, soprattutto è una vera e propria band leader, perché nella sua carriera, è nata nel 1960, appunto, quindi non è abbastanza, relativamente giovane, si è affermata soprattutto come direttrice e arrangiatrice di big band, quindi lavora con grandi organici. Infatti è allieva di uno dei più grandi arrangiatori della storia della musica jazz, che è quel Gil Evans, che con Miles ha creato la Miles Big Band degli anni del cool jazz di Miles. E da Gil Evans sicuramente ha imparato bene, tant'è che è uscita da una carriera già lunga, che però non l'aveva portata a grandissima popolarità, con degli album che le sono valsi poi Grammys, una serie di premi negli ultimi 10-15 anni, sicuramente sull'onda prepotente della bellezza dei dischi, della bellezza degli arrangiamenti e della sua originalità compositiva. Adesso appunto potrete sentire qual è questa originalità di cui parlava giustamente Paolo, è un po' un ambiente diverso, sono dei suoni abbastanza diversi. Il disco che è stato premiato è questo Sky Blue, e adesso sentiremo appunto un pezzo significativo, direi, che mette in luce queste caratteristiche che vi abbiamo finora descritto. Schneider Orchestra, disco del 2008 che vince il Critics Poll di Downbeat nel 2008, Sky Blue. Beh, direi anche in questo pezzo in particolare un grande clarinetto. bellissimo, bellissimo. Sì, delle bellissime atmosfere, fa un po' pensare, ecco, al lavoro che c'è dietro a una big band in termini di arrangiamento, in termini di così di affiatamento fra tanti artisti che bisogna motivare e che non è sempre facile far andare insieme. In fondo quello delle big band è un po' il jazz del passato, ma come in questo caso possiamo sentire può essere anche un jazz molto attuale. Assolutamente, poi naturalmente è una grande orchestra in grado di raccogliere tanti, tanti stimoli e di amalgamarli con grazia. Continuiamo nella nostra riscoperta di successi dei Critics Poll di Downbeat, sempre nel 2008, per parlare di un altro musicista, un sax tenore tra i più influenti sicuramente degli ultimi decenni, quello dello scomparso Michael Brecker. Sì, come giustamente hai detto, purtroppo in questo caso dobbiamo riferirci a un musicista che è morto e che è morto quando ancora aveva moltissimo da dire, era in una età in cui molti musicisti continuano ad essere attivissimi e purtroppo una grave malattia lo ha colpito e non gli ha più permesso di lavorare, salvo questo ultimo disco, un po' questo Pilgrimage, che poi è stato anche premiato, ha una storia un po', no, sua, potremmo dire, perché è stato inciso quando ormai Michael Brecker era molto malato e tutti i musicisti, sono dei grandi musicisti che hanno collaborato con lui su questo disco, lo hanno in qualche modo così seguito, assistito, certe volte anche con dolore, perché suonare non è certo un'attività di tutto riposo e per quello che sappiamo le sessioni di registrazione devono necessariamente essere relativamente brevi per non stancare troppo la persona. Non è un caso che appunto il line up, il gruppo che suona in questo disco è formato da nomi grandissimi come Herbie Hancock, Brad Mehldau per citare i pianisti, Pat Metheny per citare la chitarra, Jack DeJohnette batteria, John Paul Patitucci al basso, insomma veramente di tutto rispetto. Brecker aveva iniziato giovanissimo la sua carriera nel 70, 21enne, già inserito nel mondo del jazz rock, tant'è che era in formazione con Billy Cobham, il grande batterista, e da allora lungamente lavora proprio sul ponte sottile che unisce la musica jazz e sonorità più rock, tant'è che di lui si dice che abbia esplorato un po' un territorio che viene dalla chitarra rock come fraseggio, come musicalità, per trasferirlo sul sassofono tenore. Sì, tanto per parlare di un altro gruppo che è stato molto importante in questo contesto e di cui Michael Brecker è stato sicuramente uno dei grandi animatori, possiamo parlare di Steps Ahead, no? Sono con Mike Mainieri, hanno costruito alla fine degli anni 70, ma soprattutto negli anni 80, veramente un genere, devo dire, che ha aperto la strada anche a molti altri gruppi. E tanti gruppi si sono avvalsi del fraseggio di Brecker, anche in punto in un mondo completamente estraneo alla musica jazz. Pensiamo ad esempio a Steely Dan, Lou Reed, Donald Fagen, i Dire Straits, Johnny Mitchell e tanti altri, Eric Clapton, che hanno voluto inserire il suo sassofono in dischi non jazz. Certo, è difficile un po' elencare tutte le esperienze di Michael Brecker e i grandi musicisti con cui ha suonato e soprattutto anche tutti i dischi che ha fatto da solo, ma un'altra cosa che dobbiamo assolutamente citare è l'esperienza dei Brecker Brothers. Certo, il fratello Randy, sicuramente una famiglia fortunatissima musicalmente. Sì, e anche che ha dato molto alla musica, senz'altro, in tutti questi anni. Lo sentiamo adesso appunto in questo disco, diciamo sofferto, ma che di per sé costituisce veramente un testamento così viene ritenuto della sua musica, una legacy, no? Come viene detto sempre in inglese. Ha attraversato tante fasi, alcune artisticamente più significative, altre più orecchiabili, più vicine anche alla musica popolare, ma sicuramente un artista enormemente significativo che ricordiamo con affetto e ammirazione. sassofono inconfondibile di Michael Brecker, splendido, e ascoltarlo ci fa capire quanto sia stato influente, perché nel suo fraseggio riconosciamo tantissime delle performance di sassofono degli ultimi 10-15 anni influenzati da lui. Sì, devo dire che Michael Brecker aveva anche una grande presenza scenica, perché senza essere gigione o simpatico per forza riusciva ad imporsi sia quando era di spalla sia quando era da band leader, non solo con la sua tecnica ma anche con la sua semplicità e con la sua simpatia, che riuscì a trasmettere sempre al pubblico, questo va detto. Poi non facile comunque affermarsi come stella enorme di uno strumento molto, molto afroamericano come il sassofono. Probabilmente lui e Jerry Mulligan sono i due più importanti sassofonisti bianchi. Insomma, Brecker davvero, davvero ha segnato la storia dello strumento. L'ultima performance dal vivo di Brecker prima della morte nel 2007 è un concerto a Carnegie Hall a New York, 23 giugno 2006, in cui posso dire con qualche nostalgia, oltre che gioia di esserci stato e di avere visto Brecker camminare sul palco della Carnegie e lanciare dal suo strumento i suoi assoli splendidi. Beh, sicuramente lascia un vuoto che non è facile colmare, lo so che queste sembrano sempre delle parole abbastanza scontate, se vogliamo, però la sua mancanza si sente anche in termini di sperimentazione. Non abbiamo detto che Michael Brecker è anche un grande sperimentatore, non solo per i gruppi che aveva appunto fondato, con cui ha suonato, ma anche per gli strumenti. Lui aveva inventato questo iwi, no? Che era uno strano forma di strumento affiato ma elettronico, che aveva delle modulazioni, e soprattutto nel periodo di Steps Ahead viene molto utilizzato, che dà un po' l'idea di come lui fosse aperto anche a tante altre sonorità, a tante altre esperienze. Di certo questa era una sua capacità, un'apertura culturale che porta nel mondo della cosiddetta fusion anche negli anni 70-80, anche se appunto non lo si può ridurre a quel periodo, perché ha spaziato molto più in là e molto più in largo. Il mio disco preferito di Brecker sicuramente è un disco con il fratello, che è Tales of the Hudson River, I racconti del fiume Hudson, in cui c'è un'esplosività. Non è un disco fusion, è un disco di jazz molto tirato, molto, molto energico, ma non ha la vicinanza alla musica rock del fusion. Bene, prima hai parlato appunto dell'ultima sua comparizione in pubblico con Herbie Hancock, e direi che questo ci dà un po' la possibilità di introdurre gli ultimi due grandi artisti che vogliamo proporre, sempre legati a queste critiche, nel senso di queste valutazioni date da Downbeat. Sì, perché nel Critics Poll dell'anno scorso, nel sondaggio dei critici del 2008, per l'ennesima volta in realtà, ma registriamo la vittoria come miglior pianista di Herbie Hancock e come miglior sax alto, contralto, di Wayne Shorter. Si tratta di due monumenti anch'essi della musica jazz, e dunque cogliamo l'occasione per farvi ascoltare un loro disco recente. Sì, un'occasione per farvi ascoltare questo disco che hanno inciso insieme, solo loro due. Un po' una composizione particolare quella di piano e sax da soli, ma sentirete che cosa riescono a produrre. Infatti questo disco si intitola 1 più 1, 1 plus 1. È un disco del 1997, quindi non è recentissimo, ma lo stesso mette in luce le caratteristiche straordinarie di questi due strumentisti e anche l'affiatamento, perché poi loro hanno avuto molte occasioni di suonare insieme. Qui posso ricordare che invece in un concerto alla Carnegie Hall a New York, a cui io ho partecipato, il gruppo di One Shorter si è unito a un certo momento verso la fine del concerto, come succede spesso in questi grandi avvenimenti, Herbie Hancock che ha suonato con loro con tutta la semplicità e la grandezza che solo questi tipi di musicisti possono garantire. Adesso il pezzo che sentiremo si intitola Visitor from Nowhere ed è tratto appunto da questo disco in cui hanno inciso insieme e che si intitola One Plus One. Herbie Hancock e Wayne Shorter, in questo disco del 1997 che ci riporta a Downbeat e alle grandi stelle selezionate da questa rivista così prestigiosa. Shorter lo conosciamo come questo sassofonista soprano stellare, soprattutto a partire dal 69, l'anno in cui inizia a suonare il sax soprano, prima si dedica all'alto e al tenore e lo fa con grande successo nei quintetti di Miles in tutta la metà degli anni 60, la seconda metà degli anni 60, e di Herbie Hancock sappiamo bene la capacità di contaminare il jazz, di suoni funk, elettronici, grande innovatore. Sì, Herbie Hancock, possiamo dirlo, è uno dei bambini prodigio, no? Già da giovanissimo suonava, ma soprattutto ha anche un'impostazione classica, da giovane suonava anche Mozart, e si ritrova in alcune sue composizioni o alcune sue escursioni, come dicevi tu, ha un po' coperto tantissimi generi anche lui, passando anche nel periodo funk vero e proprio, che è stato di per sé un periodo importante anche per il jazz, perché poi è stata una contaminazione. E Panthers, quei dischi lì, Rocket, e poi lo troviamo appunto nel 69 nel disco importantissimo di Miles, Beaches Brew. Bene, direi che abbiamo concluso la nostra passeggiata lungo le segnalazioni di Downbeat. Speriamo di avervi introdotto a degli artisti interessanti e anche a questa importantissima rivista. E chi vuole potrà partecipare al sondaggio di quest'anno dei musicisti e dischi dell'anno su Downbeat, collegandosi al sito della rivista online Downbeat Jazz. Bene, un saluto da Stefano e da Paolo, con la speranza di risentirvi presto, e buon jazz. Ciao a tutti. Ciao.